Il terzo anello, ad alta voce. La certosa di Parma, di Stendhal. Introduzione di Giulio Ferroni. L'ultimo romanzo pubblicato da Stendhal, La Certosa di Parma, La Chartreuse de Parme, nel 1839, raccoglie in sé tutto il senso della vitalità, dell'energia, della passione, della ricerca di amore, di felicità che sprigionano dalla vita e dall'opera intera di quest'autore. È come un autunno rigoglioso che conserva dentro di sé lo spirito e la furia della giovinezza. Uno strano pomeriggio senza fine, si direbbe con parole di Stendhal, in cui si dispiega un'assoluta felicità narrativa che accumula i colori della realtà e del meraviglioso, della naturalezza e dell'artificio, dell'autenticità e della mistificazione, della tenerezza e dell'intrigo. Felicità narrativa che trascina velocemente, come in una cavalcata interminabile, personaggi, ambienti, storia collettiva, desideri intimi, passato, presente, davvero senza pause, senza interruzioni. Tant'è vero che il nostro Tomasi di Lampedusa ha detto che questo romanzo è forse il più grande, certamente il più amabile che sia mai stato scritto, pensate. Tutto vi acquista infatti uno spessore assoluto, tutto avanza e precipita con una leggerezza impagabile, con un ritmo che ha fatto parlare da alcuni di commedia, di operetta, di vaudeville. In realtà la forza della Certosa sta nel fatto che essa sembra riassumere in sé tutti i generi letterari possibili. In primo luogo sembra trasportare nel romanzo moderno e realistico la fascinazione dell'antico romanzo cavalleresco, della sua forma rinascimentale più dispiegata. Ariosto e Tasso, insomma, dame e cavalieri nel tempo fosco però della Restaurazione del primo Ottocento. Certo, la vicenda è ambientata in un tempo e in un luogo definito, nell'Italia degli anni stessi in cui Stendhal vi ha vissuto, tra la Lombardia e un ducato di Parma un molto fosco e fiabesco in realtà, che presenta tratti che sono quelli della Modena dell'ultrareazionario duca Francesco IV d'Este. Però quell'Italia contemporanea e tutti i suoi eroi hanno i tratti dell'Italia del Cinquecento, tant'è vero che l'autore si è servito di una cronaca antica sulla famiglia Farnese. Insomma, ci muoviamo in un mondo tutto contemporaneo, rappresentato tra l'altro con acume critico, le immagini della società del tempo emergono con grande forza, quelle della società della Restaurazione, ma nello stesso tempo siamo proiettati in un immaginario rinascimento, con i suoi intrighi, le sue passioni, le sue violenze, i suoi eccessi, in un vortice narrativo regolato appunto dalle passioni dei personaggi, che si muovono al di là di ogni vincolo morale, che seguono fino in fondo una ricerca di personale felicità, una brama che costruisce lo spazio stesso della società e poi in un certo senso quasi sembra corroderne i fondamenti. Un'Italia insomma meravigliosa e slabbrata, gloriosa e fatiscente, sontuosa e miserabile, di cui Stendhal esalta gli spiriti ardenti, pronti all'entusiasmo, a mettere in gioco se stessi seguendo sempre il richiamo del desiderio, e oppone questi spiriti a quella che per lui è la fredda volgarità della Francia contemporanea. Il romanzo segue nelle varie fasi la ben noto la biografia del nobile cadetto Fabrizio Del Dongo, con i suoi slanci eroici e le sue illusioni sempre deviate, ma egli non assume comunque un ruolo di protagonista assoluto come invece Julien Sorel nell'altro grande romanzo Il Rosso e il Nero. Accanto a lui si impone prima di tutto la figura affascinante, ambigua, imprendibile, insieme dolcissima e diabolica della zia Gina, che ha molteplici incarnazioni e molteplici nomi, Pietranera, Sanseverina, Mosca. E poi, essenziali comprimari, sono appunto il conte Mosca, abilissimo politico e uomo di società, e Clelia Conti, che è come trascinata nella vicenda da una sua ritrosa e tragica solitudine. Insomma, si segue l'affascinante scrittura di questo immenso capolavoro, con quell'inconfondibile tono stendhaliano che, come disse Paul Valéry, è il più individuale che ci sia in letteratura. Thank you. Il 15 maggio 1796 il generale Bonaparte entrò in Milano alla testa di quel giovane esercito che aveva passato il Ponte di Lodi e dimostrato al mondo che dopo tanti secoli Cesare e Alessandro avevano un successore. I miracoli di coraggio e di genialità di cui l'Italia fu testimone in pochi mesi risvegliarono un popolo addormentato. Appena 8 giorni prima dell'arrivo dei francesi, i milanesi li consideravano nient'altro che una banda di briganti, abituati a scappare regolarmente davanti alle truppe di Sua Maestà Imperiale e Reale. Questo almeno era quanto continuava a ripetergli 3 volte la settimana un certo giornaletto non più grande di un palmo stampato su carta grigiastra. Quei soldati francesi non facevano che ridere e cantare. Avevano meno di 25 anni e il loro generale in capo, che ne aveva 27, passava per il più anziano di tutto l'esercito. La loro vivacità, la loro giovinezza, la loro libera disinvoltura erano una risposta davvero divertente alle furibonde prediche dei preti, i quali da 6 mesi avevano continuato a proclamare dal pulpito che i francesi erano dei mostri, obbligati sotto pena di morte a incendiare e a tagliare teste, e che ogni reggimento marciava preceduto da una ghigliottina. Gli ufficiali, quando era possibile, venivano alloggiati in casa dei ricchi, e bisogna dire che avevano proprio bisogno di rifarsi. E così a un tenente, un certo Roberto, toccò un biglietto d'alloggio per la casa della Marchesa del Dongo. Entrando nel palazzo, quell'ufficiale, un tipo sveglio chiamato sotto le armi dal decreto della Convenzione, non possedeva altro che uno scudo di 6 franchi incassato pochi giorni prima a Piacenza. Dopo il passaggio del Ponte di Lodi, aveva sfilato a un bell'ufficiale austriaco ucciso da una palla di cannone uno splendido paio di pantaloni quasi nuovi, e mai pantaloni erano arrivati in un momento più opportuno. Aveva spalline di lana e la stoffa della giubba era cucita alla fodera delle maniche, tanto per tenerne insieme i brandelli. Ma la cosa più malinconica erano le suole delle scarpe, ricavate da un cappello trovato anche quello sul campo di battaglia di qua dal Ponte di Lodi. Quelle suole improvvisate erano legate alle scarpe da certi pezzi di corda che saltavano agli occhi. E quando il maggiordomo entrò nella sua stanza per invitarlo a cenare con la signora Marchesa, il tenente Roberto si sentì spaventosamente imbarazzato. Lui e il suo attendente passarono le 2 ore che li separavano da quella cena fatale a cercare affannosamente di ricucire un po' l'uniforme e a tingere di nero con l'inchiostro quei maledetti pezzi di corda intorno alle scarpe. Poi giunse il terribile momento. «Non mi sono mai sentito più a disagio in vita mia», mi raccontò poi il tenente Roberto. «Loro, le signore, erano convinte che gli avrei fatto una gran paura, e io tremavo più di loro. Mi guardavo le scarpe, cercavo di camminare con grazia, ma non ci riuscivo. A quel tempo la Marchesa del Dongo era nel pieno della sua bellezza. Tu l'hai conosciuta, quegli occhi stupendi, dolcissimi, quei capelli biondoscuri intorno all'ovale di una faccia incantevole. Avevo nella mia stanza un disegno di Leonardo da Vinci, un Erodiade. Sembrava il suo ritratto. Intanto la Marchesa, per farsi un po' di coraggio, me lo ha ripetuto tante volte dopo, aveva fatto chiamare Gina del Dongo dall'educandato. Gina era la sorella del padrone di casa e sarebbe poi diventata la contessa Pietranera. Credo che non ci sia mai stata nessuna donna più amabile e più gioiosa di lei nella fortuna, nessuna più coraggiosa e serena nelle avversità. Gina avrà avuto 13 anni, ma ne dimostrava 18. Vivace e franca com'era, l'hai conosciuta, aveva tanta paura di scoppiarmi a ridere in faccia che non osava mangiare. La Marchesa, invece, si sentiva in dovere di colmarmi di cortesie. Dal mio sguardo si rendeva perfettamente conto di quanto fossi a disagio. Insomma, stavo facendo una figura da stupido e dovevo masticare amaro, anche se dicono che per un francese è impossibile. Finalmente il cielo mi mandò un'idea folgorante. E incominciai a raccontare a quelle signore le mie disgrazie e tutto quello che avevamo sofferto per 2 anni tra le montagne intorno a Genova, trattenuti da vecchi generali idioti. Ci davano, dissi, buoni acquisto senza alcun valore nel paese e 3 once di pane al giorno. Dopo 2 minuti la Marchesa aveva le lacrime agli occhi e Gina si era fatta seria. 8 giorni dopo, mi raccontò ancora Roberto, quando parve proprio assodato che i francesi non ghigliottinavano nessuno, il marchese del Dongo tornò dal suo castello di Griante sul lago di Como, dove si era coraggiosamente rifugiato all'avvicinarsi del nostro esercito, lasciando in mezzo ai pericoli della guerra la bella moglie e la sorella. L'odio che il marchese provava per noi era pari alla sua paura, e cioè incommensurabile. Era molto divertente quando faceva il cortese con quel suo pallido faccione da bigotto. Quel periodo di felicità inaspettata, di esaltazione, non durò che due brevissimi anni. Fu un'esplosione di vitalità, una specie di follia collettiva di cui si può avere un'idea soltanto se si medita su una circostanza storica fondamentale. Quel popolo si annoiava da 100 anni. La gioia di vivere, uno stato naturale nei paesi del sud, aveva regnato un tempo alle corti dei Visconti e degli Sforza, i famosi duchi di Milano. Ma dal 1624, quando gli spagnoli avevano occupato il milanese, e l'avevano occupato da padroni taciturni, diffidenti, superbi, sempre intenti a sospettare rivolte, la gioia di vivere era svanita. Seguendo i costumi dei suoi padroni, la gente non pensava più a godere la vita, si preoccupava soltanto di vendicare il più piccolo insulto a pugnalate. Dal 15 maggio 1796, quando i francesi entrarono in Milano, all'aprile del 1799, quando furono costretti ad abbandonare la città dopo la battaglia di Cassano, la gioia più pazzesca, la voglia di divertirsi, l'abitudine a lasciar perdere i pensieri malinconici o anche soltanto ragionevoli, furono spinte a un punto tale che si poté persino citare il caso di vecchi mercanti milionari, di vecchi usurai, di vecchi notai che si erano dimenticati di fare la faccia scura e di guadagnare quattrini. Il marchese del Dongo, irritato da tutta quella allegria, era stato uno dei primi ad andarsene ed era tornato nel suo splendido castello di Griante, oltre Como. E le signore avevano portato con loro il tenente Roberto. Il castello era sorto come una fortezza. Era situato in una posizione forse unica al mondo, su uno spiazzo a 150 piedi di altezza, a picco su quel lago meraviglioso, e ne dominava una gran parte. La famiglia del Dongo lo aveva fatto costruire nel 400, come testimoniavano i molti stemmi scolpiti. C'erano ancora ponti levatoi e profondi fossati, per la verità senz'acqua. Ma con quelle mura, alte 80 piedi e larghe 6, il castello era difeso da ogni colpo di mano e per questa ragione piaceva moltissimo al sospettoso marchese. Con intorno una trentina di domestici, che considerava fedelissimi forse perché gli parlava soltanto per ingiuriarli, aveva un po' meno paura di quando era a Milano. Quella paura, del resto, non era del tutto irragionevole. Il marchese si teneva in stretto contatto con una spia sistemata dagli austriaci sul confine svizzero, a 3 leghe da Griante, per agevolare la fuga dei loro prigionieri, E questa era una faccenda che i generali francesi avrebbero potuto prendere sul serio. Poi ci fu un fatto molto importante nella famiglia. Il marchese aveva combinato un matrimonio tra la sorella Gina e un uomo molto ricco e molto nobile, ma quel signore si incipriava i capelli e Gina lo accoglieva scoppiando a ridere e ben presto fece la pazzia di sposare il conte Pietranera. Questi in realtà era un'ottima persona, nobile e anche molto bello, ma di famiglia che si era rovinata. Era anche un acceso sostenitore delle idee nuove. E poi, cosa che portava al colmo la disperazione del marchese, Pietranera era sottotenente della Legione Italiana. Dopo quei due anni di felicità e di pazzie, il direttorio di Parigi, dandosi aria di sovrano ben saldo sul trono, incominciò a dar prova di un odio mortale per tutto ciò che non fosse mediocre. I generali incapaci messi al comando dell'esercito d'Italia persero una battaglia dopo l'altra su quelle stesse pianure veronesi che due anni prima avevano visto i prodigi di Arcole e di Lonato. E gli austriaci si avvicinarono a Milano. Il tenente Roberto, che era diventato comandante di battaglione e che era stato ferito a Cassano, andò per l'ultima volta a casa della sua amica, la Marchesa del Dongo. Si salutarono, tristi. Roberto partì insieme al conte Pietranera, che seguiva i francesi in ritirata verso Novi. Gina, a cui il fratello aveva rifiutato la quota legittima dei beni di famiglia, andò dietro alle truppe, su una carretta. Incominciò allora quel periodo di reazione, di ritorno alle vecchie idee, che i milanesi chiamano i 13 mesi, dato che per loro fortuna quel ritorno all'idiozia durò soltanto 13 mesi, fino a Marengo. Tetri vecchioni bigotti ripresero in mano i commerci e la direzione della cosa pubblica, e dopo un po' i ben pensanti andarono a raccontare ai contadini che Napoleone era stato impiccato dai mammalucchi in Egitto, proprio come si meritava. Dobbiamo confessare che, secondo l'esempio di scrittori importanti, abbiamo incominciato la storia del nostro eroe un anno prima della sua nascita. Questo personaggio fondamentale non è altri che Fabrizio Valserra, marchesino del Dongo, come dicono a Milano. Aveva appena fatto lo sforzo di venire al mondo che i francesi furono cacciati. E per il caso che presiede alle nascite, si era trovato ad essere il secondogenito di quel vero signore che era il Marchese del Dongo, di cui già conoscete la facciona senza colore, il sorriso falso e l'odio furibondo per le idee nuove. L'intera fortuna della famiglia era affidata nel testamento al primogenito Ascanio, degno ritratto del padre, con l'incarico di amministrarla e di dividerla a suo tempo. E Ascanio aveva 8 anni e Fabrizio ne aveva 2 quando all'improvviso quel generale Bonaparte, che tutti i benpensanti credevano morto e sepolto, discese dal San Bernardo, entrò in Milano. Fu un momento ancora unico nella storia. Cercate di immaginarvi un popolo impazzito d'amore. Pochi giorni dopo, Napoleone vinse a Marengo. Il resto è inutile raccontarlo. Saltiamo 10 anni. 10 anni di progresso e di felicità dal 1800 al 1810. I primi di quegli anni Fabrizio li visse al castello di Griante, scambiando pugni con i ragazzi del paese, senza imparare niente, neanche a leggere. Poi lo mandarono a Milano, al collegio dei Gesuiti. Il marchese suo padre pretese che gli insegnassero il latino non su quegli autori antichi che non fanno che parlare di Repubblica, ma su un magnifico volume decorato da più di 100 incisioni, capolavoro di artisti del XVII secolo. Era la genealogia dei Valserra, marchesi del Dongo, pubblicata nel 1650 da Fabrizio del Dongo, arcivescovo di Parma. Dato che la storia della casa era soprattutto una storia militare, le incisioni rappresentavano una quantità di battaglie e c'era sempre qualche eroico Valserra che dava gran colpi di spada. A Fabrizio quel libro piaceva moltissimo. Sua madre riusciva di tanto in tanto a ottenere il permesso di andare a Milano a trovare il suo adorato figliolo, ma il marito non le dava mai i soldi per il viaggio. Era la cognata, la simpatica contessa Pietranera, a prestarglieli. Dopo il ritorno dei francesi, la contessa era diventata una delle donne più brillanti alla corte del principe Eugenio, viceré d'Italia. La contessa accompagnava il nipote a tutte quelle splendide feste che segnarono il regno troppo breve dell'amabilissimo principe Eugenio. L'aveva nominato di sua autorità ufficiale degli ussari e Fabrizio, a 12 anni, portava l'uniforme. Un giorno, tutta presa dal suo aspetto delizioso, la contessa chiese per lui al principe un posto di paggio, il che voleva dire che la famiglia del Dongo avrebbe abbandonato l'opposizione. Il giorno dopo, la contessa dovette ricorrere a tutto il suo credito per ottenere che il viceré acconsentisse a dimenticare quella richiesta, cui mancava soltanto il consenso del padre del futuro paggio, consenso che sarebbe stato clamorosamente rifiutato. Dopo tale pazzia, il marchese, infuriato, trovò un pretesto per richiamare Fabrizio a Griante. La contessa disprezzava nel modo più assoluto suo fratello. Lo considerava un tetro idiota, capace anche di crudeltà, se ne avesse avuto il potere. Ma era pazza di Fabrizio. E dopo 10 anni di silenzio scrisse al fratello per riavere il nipote con sé. La lettera non ebbe risposta. Al suo ritorno in quella specie di fortezza costruita per i suoi antenati più bellicosi, Fabrizio conosceva solo 2 cose, l'equitazione e gli esercizi militari. Il conte Pietranera, che gli voleva bene quanto la moglie, lo aveva fatto cavalcare e lo aveva portato con sé alle parate. La vita al castello, abitato da una 30ina di domestici, era molto triste. Fabrizio passava le giornate a caccia o in barca sul lago. In poco tempo fece amicizia con i cocchieri e i garzoni di scuderia. Erano tutti partigiani entusiasti dei francesi e prendevano apertamente in giro quei bigotti dei camerieri addetti al servizio personale del marchese e del figlio maggiore. Il motivo principale di tutti gli scherzi contro quegli austeri personaggi era che si incipriavano i capelli come i loro padroni.